compañeros de la especial Isla de la Sardinia, adelante. Adelante, compañeros de Escuchi Isla de la Sardinia, adelante. Atento, mi hermano de la especial, la Sardinia. Chi è avanti? Ah, è Natalino. Ciao. Ciao, ciao. Buonasera. Ehi, te lo chiamare, io sono. Come ha detto che non l'ho capito bene? Ehi, te lo chiamare, io sono. Ehi, aspetta che chiudo il televisore, sennò qua non ne capisco nulla. Troppo alto l'ha messo mia moglie. Vabbè. Tu però dovresti abbassare un po' perché non stai uscendo bene. Prova a abbassare appena appena. Guarda se va meglio così. Perché io non mi sento, capito? E lascialo così, perché se no non era chiara, poco fa non ci ho capito. Quando stavo andando a spegnere il televisore, capito? Bucarmi il lugoso, se tu tocchi vai a tutto lì. Ti ha mandato un... l'hai visto quel link? No, adesso lo guardo. Cazzo, lo sai che mi è arrivato il tasto? Ieri mi è arrivato. Ehi, me l'hai detto. Provatelo. Ehi, l'ho attaccato allo scillofono. Funziona alla grande. Solo che mi devo fare un basamento perché è un tasto militare ed è basso basso, deve essere che lo abitavano a qualche posto, non lo so. Una basetta mi devo fare per rialzarlo. È un tasto militare quello che ho preso io, quelli col tappo, quelli che hanno il tappo che si ribalta e si apre. Ah, ho capito, belli. Ho capito. Vabbè, cosa ci vuoi mettere sotto? Un 2,5, non di più. Ehi, una basetta di legno vorrei mettergli, non lo so. È che non ce l'ho, bisogna che mi buschi una basetta di legno e mettercela, non lo so cosa mettere. Anche per appesantirlo, perché è leggerissimo. Vabbè, se no devi mettergli nella basetta dei piedini, in modo che non si sposti. I piedini in gomma. No, ce li ho i piedini, però li voglio mettere nella basetta, l'ho avvito a una basetta di legno, ci sono i due buchi per le viti dietro, no? Sì, vabbè, un pezzo di legno infatti, un pezzo di legno, già ce n'è, dico la roba lì. Sì, già ce n'è, bucato, me lo busco e glielo faccio, no? Allora, rettangolare con gli angoli smussati, un po' di impregnante. Sì, infatti, è bellino come tasto. Maglia. Vabbè, però se non vai la radio con cosa bruci, lo darà chi? No, con lo scillofono mi devo allenare, non è bisogno impararlo vero un GW, qualcosa già la so fare, però qualcosa, non tutto. Perché ce n'è ancora di gente che lo usa parecchia. Lo so, anzi sembra che ci sia moltissima gente che stanno uscendo più in CW che altro. E da quando hanno tolto l'esame hanno aumentato la gente che vuol fare CW. A me mi è sempre interessato la verità, almeno non c'è bisogno di parlare. Hai capito? Questione di passione per la vita. Aspetta un attimo che guardo il link che mi hai mandato. A me non risulta che l'hai già visto, però. Ah, quello dell'FT. Esatto. Sì, l'ho visto. adesso ti mando il tasto. Intanto collego le MB più 4, così mi dici come esce attaccato qua. Esce bene, perché ce l'avevo anch'io attaccato a un apparato del genere. Le MB più 4 esce bene. Stai un attimo. La voce. Sto abbassando l'amplificazione, no, aspetta un attimino che disattivo la modifica che gli avevo fatto. Adesso senza la modifica. Quindi forse ho migliorato, se no abbasso ancora dall'amplificazione. No, abbassalo ancora che è troppo forte. Va bene, metti l'attacco. Beh, figurati, ho disattivato la modifica. Così col pedale inserito, così disinserito. Ecco, è uno. Va bene allora, no? Ma vai, come ti rifavi demo, tu di Bassona. È di lusso. Lo sai i rumori che si sentono sotto quando attacchi l'amplificazione, che gli metti quella modifica troppo forte? Perché è un fastidio, l'avevo messo dietro, qua all'interno vabbè c'è un condensatore, l'avevo messo. Adesso c'è la modifica, vedi? E si sentono rumori di fondo anche. Molti rumori ci sono. Non va bene, no, la modifica è troppo forte. Mica ti ho mandato quell'affare lì. Perché l'avevo fatta la modifica per il baracchino. Allora, aspetta, mi guardo questa roba. Ehi. Ah, sì. Un piede ci vuole lì. Ho le 24 piedi in gomma alti, direttamente. Con la pitina. Piedini, ma è troppo, come dire, troppo leggero, Emmy. C'è anche quello. Sì, allora una basetta di coso, di legno, o di legno, di o di coso, di plessiglass, quello grosso, tipo tagliere, quelli che sono pesanti rispetto al legno. Ce l'ho quello di plessiglass, il tagliere. E di quelli grossi da 2 cm però, non sta di capito, che è più pesante del legno. Lo so, solo che mi tocca rovinare il tagliere. Se mi trovo un legno pesante, solo che è così piccolino, insomma, come peso sei sempre lì, mi sa. Io ce l'ho del tagliere mai grosso da 3, mi sembra. E non lo so da quanto è, adesso lo guardo. Aspetta un attimo che mi hanno suonato. Io sto usando lo stesso MB più 4, però è sopra Superstar 3009, capito? Sta andando benissimo, Natalia. Sta andando benissimo, a voglia. E a te, capo del sciure. Luca, cambiato microfono, Hector. No, non ho toccato niente. Niente di niente. E mi sembrava più forte. No, è uno, è di più, mi sa che non mi intendo, aspetta. Poi mi risulta che sto uscendo però. Ecco. Ho passato ancora. Ragarussi, andate. Sto dicendo io quel tagliere, quella roba lì che mi avevano dato, è grosso, però qui poi naturalmente scivola sul tavolo. mettono? Quelli in gomma, neanche feltrini, perché quelli non vanno, scivolano lo stesso posto. E ce li ho, i piedini ce li ho. E le misure qui c'erano? Aspetta, mando la foto di quella plexiglass. Cosa, Luca? Ti sto mandando la foto di quel plexiglass che ho. Ho capito. Adesso lo guardo. Che è che grosso, chissù? Chissù gli anda a leggere? Ehi! Quanto è grosso? Quello è bello, è anche tagliato secondo la misura, è pesantino, è giusto e preciso. E di quello lì ci vuole, devo buscarmelo così. Quello che c'ho io è più fino. No, dammi le misure, perché voi è tagliato la taglia con la sega da banco, capito? Che mica non dovrebbe tagliarsi che tu visto. Però mi servono le misure, finite, capito? Poi li taglio gli angoli, li facciamo smussati, non rotondo, ma smussati belli, ad angolo, capito? Però mi servono le misure, finita. Bisogna che lo misuro il tasto e ti dico quanto è lungo e quanto è largo, aspetta e guardo. Stai almeno un centimetro per lato in più, capito? In modo che anche esteticamente sono pari un coso pari, una stampella. Ehi, aspetta un attimo, bisogna che pigli un lumetto, così. Allora, è lungo 14 centimetri, è largo 8. Luca, ci sei? Se tu non stavi ascoltando, è 14 centimetri per 8. Finito oppure devo aggiungerlo io il centimetro? È finito, dai, gli ho messo qualcosina in più io. Capito? 14 per 8. Perché solitamente lasciano sempre il centimetro per estetica, capito? Ma almeno un centimetro di lato lasciano, capito? Farlo 15 per 8, va. No, 15 per 9, non 15 per 8. Cioè 14 per 8, dobbiamo farlo 15 per 9, ok, va bene, adesso me lo segno. E fai così. L'ho segnato con un righello, ho preso la misura. Meglio. 15 per 9 l'ho fatto. Aspetta che vado fuori a segnarlo intanto, così domani mi scendo il macchinario e lo taglio. Ehi. Ti mando la foto. E poi con cosa lo posso verniciare lui? Ah, vuoi verniciare? No, dico, con che vernice lo posso verniciare quello lì? Ah, spray, per plastica. Naturalmente devi dare il primer sempre per plastica. Ecco. Lo posso unire, lo posso come interrubassa, ma manco non si vede che è un tagliere, capito? E poi gli incollo sotto i piedini di plastica. Quelli ci vogliono perché sono scivolati. Ma io non riesco a comprendere una cosa, buonasera a tutti. Cioè vai un microfono serio, sedi, con l'alternata, tutto buco, pare vai un patato in bocca, ma lo... Sì, ma ha regolato Natalino. Ha regolato Natalino con che cosa? Col baracchino? Sei tutto cupo, sei qua e un patato in bocca, c'è il rumore di alternata sotto, ma io non vi comprendo a voi. Avete le cose professionali che mettete a usare, cagate da 40 euro, cazzo. Questo è l'RPQ4, ma ha regolato Natalino, ha deciso di riuscire, e sicché, perché se c'è male, certo, mi sto dicendo bene, ma insomma, come ti bisogna regolare, no, non lo so. Ma lascia fare la regolazione, ti ha fatto un attarino, sei cupo, vai, va, patate e bombo. Ma metti le MC 60, cazzo. Cioè, ma come mai con una radio leggera i vescicoli, MB più 5, più 4, cazzo, quando vai le MC 60? Oh, non ti comprendo da te, veramente. Esperimenti fatti, ma lampade tutto, metti le MC 60 su quella radio e boh, e non devi toccare nulla, cazzo lu, minchia, a me va rimasto Giovannino a più perché non è caduto la scala, va bene, grazie. Brecchi, avanti Brecchi, correti per me. Buonasera a tutti, Gianni Lo Più, dai, ciao Claudio, buon correti. Correti anche per me, ciao. Riprendi Natalia, la tua registrazione va benissimo, ma cazzo non vuole ascoltato con la radio, che c'ho io non vuole sentito. Grazie chi tocca, a chi ancora gli recendi giaru, invece che tocca e lo alza. Per esempio quando mette la modifica è ancora peggio perché si sentono i rumori di fondo. Poco fa sta facendo bene, però sì, rudocca, magari non si nabbizza e dici così, poco fa sta facendo bene. Ma io ho salvato il volume, ho sentito questa papera, ma vedendo, ho detto, buh, ragazzi, c'è stesso. Vabbè, dai, c'è gente, non posso rimanere, sono entrato solo per dire questa cosa a lui. Ciao a tutte e tre, a tutte e quattro, a tutte e cinque, le mando il codice, avanti già. Ciao Claudio, buon codice, dai. E anche io l'ho sentito occupo, però pensavo di prendersi dal parecchio io, boh, ho detto magari la sento io così. Natale, riprendi. E aspetta che sto scrivendo cosa qua, se no non mi gabubbidi. Già, dimmi. Gianni. Come sono giunto sono andati via tutti quanti, forse c'è la lembra. Oh già, cosa si difendi? Vuol dire che hanno cosa da fare, capito? Ma, vabbè, prendiamola per buona. Ti ha detto che c'aveva gente, Claudio, non poteva rimanere. Luca deve essere c'ha roba da fare, lo stesso. Allora, chiudiamo, là, se ti avete da fare, chiudiamo. Cosa ci sta a fare? Solo parte. Non ci sono io. Io stavo scrivendo cosa, capito? E ho finito adesso. Ma tu sei col cuore. Ma come non ci vuoi parlare, non ti abbassi a parlare con me, allora parli con muro. Sì, col cuore è cambiato anche il spacciatore. Come dice? Che lei è cuocomane, ha cambiato anche spacciatore. Ah, e beh, perché quella che prendevo prima mi faceva male. Capito, mi faceva mezzo fumantino e allora mi azzuffavo con tutti. Due all'alba ne mancano e fra due giorni vado a fare una visita e mi diranno cosa devo fare. Ah, ok, è meglio così, dai, allora a Baiti cosa devi va? Aspettina, mi è arrivato quel tasto là da voi di Dantu. Già me l'ha detto l'altro giorno, sì, l'hai usato? Sì, funziona, l'ho attaccato allo xilofono e funziona. Poi perché ti piace la telegrafia? A me non è che mi attivi tanto. Ehi, è bella, è altro che noi. Se è uno... è cosa... è felice, santante. Tu guarda chi non mi riprendi funzionare azzurra. Vabbè, magari perché ha la passione, riesce a capire cosa. Ah, io preferisco parlare, il mio coso è parlare. E anche a me piace parlare, cosa c'entra quello? Ma se uno, siccome molta gente da quando hanno tolto l'esame di telegrafia, sembra fatta apposta, stanno usando la telegrafia molta gente. Addirittura c'è Antonio che va solo in telegrafia, se ti vidi. Quello che insegna a noi. Molta gente va in telegrafia e così ci puoi fare anche i collegamenti con la telegrafia. Certa gente va in digitale. Zitto, zitto. stata capace dal computer, a me per esempio i modi digitali non è che piacciono tanto, vedi? Nemmeno a me piacciono più gli altri che quelli digitali, sì. È una questione di gusti pure. È un programma che fai tutto da solo. Tu vuoi andare, tu fai i collegamenti, gli ti rispondi, che però il computer non a te, tu magari sei a Roma, prendi un caffè e tu fai i collegamenti a conto tuo. Quello lo usava la buona anima di Tore, Vittorio Alla Verde, quel programma lì. No, ai tempi di Alla Verde mi sa che non c'era quel programma. Usavano altri programmi digitali, ma questo fa tutto da solo, non c'è bisogno che ci sei tu. Capito? E quello a me non mi piace. Aspetta un attimo, mi fa. No, già lo usava, gli faceva la chiamata, tutto quanto. Lo so io, l'ho visto io. Era la 50, era. Catazzungia, le 7 e un quarto, non veniva bizzarro. Scarta, lo sai che è morto un topo al supermercato? Ha visto il prezzo del formaggio e del musso. Beh, gli è giunto l'infarto. Come ti abbiamo rubrizzato, così è logico che gli è venuto l'infarto. Oh, a dire pericolosi, li vedi? Già me l'hanno detto anche a me quello lì. C'era la fotografia del topo morto. Che stavo dicendo, già ne stanno promettendo poche di cose adesso i politici. È tutto barare, da voi infatti bisogna vedere. Bollette, questo, quell'altro, grazie alla storia del gas non vuole risolta. Cazzo. Il gas sta aumentando sempre di più. Prima dice che ce lo davano dagli altri paesi, che non c'erano problemi, allora dice torna l'aumento. Ma cosa vuoi che ti dico? Che ti dica? La soluzione è trivellare e produrlo noi il gas e fare i rigassificatori per rigassificarlo, anche se no non li capiamo bene. E ai verdi arrestarli peraltro tra di... Ma le gasere ci sono, capito? Solo che quelle che ci sono in Italia, il gas, lo vanno ai paesi dell'est, capito? Bisogna estrarlo noi il gas, oltre che prenderlo dagli altri paesi. Se lo estrai tu ne prendi di meno dagli altri, no? Scusate la glicemia. Un attimo con c'è, a risettermizza abbiamo detto. Però prima non fai e prima me ne torno, fai, aiuto. Ah, il rompimento di botte. Oh yeah, bubu. Ruba, senti con il manganello. Cazzo ti va giù la matrigna, eh, Nobby? Bubu. La vidriga! La vidriga proprio si dice sassariso, la vidriga va giù. Figlia vera in culo! Questa megera! Bravo, ecco, certo, te lo ricorda solo. Ma come me lo ricorda lei mi viene la voglia di troncargli qualcosa addosso. Cammina, druba! Queste donne sono tutte così da sta lì. Che poco di va. Già lo so. Aspetta un attimo che me la misuro, di nuovo che hanno non si nata dai nomi. Finalmente quando eravamo a scappo è sempre in giro di notti, È tempo che fu e non torna più a vero. Karaoke, pensare sì, karaoke, tutto grande, dove c'era Kurmai? C'era il Kurmai che veniva ogni 5 minuti che voleva ordinargli la roba. Allora c'era il signor Enrico ancora lì, ecco, dove faceva il karaoke. Poi sono fatto tutta nuova e menata, è bello quel locale. Non l'ho visto, no. Dice che di un altro non c'è più il signor Enrico. Il signor Enrico è morto di Salagano. L'ho trovato anche al cimitero, signor Enrico, l'ho visto davvero. No, quello non lo sapevo, la verità, non stavo più frequentato da nessuna parte, quindi non lo sapevo che era morto. Da tanto Minatari, da tanto è morto, minimo c'è una decina d'anni. Sì, addirittura. E vabbè, e bisogna che ci vada a vederlo, quel locale, come l'hanno fatto. Poi sono andato con un amico a prendermi il caffè un giorno e l'ho visto e fatto bene. dentro all'interno non sono entrato, ma c'è la sala interna, che capito, io mi sono fermato al bancone, ma tu già lo sai come era fatto, no? Via. Bella storia. Poi ho visto quello che faceva il karaoke, uno di quei due, e lui praticamente si è sposato con la nipote di un amico mio e sono andato anche al matrimonio io. Sì. Vabbè, via, il mondo è piccolo. Erano bravi quei due ragazzi, molto bravi. E capo, adesso ti mando la fotografia del tasto, ti mando. Sei malla, ora. Poi ci dobbiamo vedere che mi devi dare quelle ghiere del coso. Così almeno me ne cambiano a pari. Eia, aspetta un attimo che... Vedi, seguici, sì. Allora, dove sei? Ecco qua. Sentirai stare giù più passato. Dove dai tu? Come sei Natale? Il televisore si è tonizzato su Sanremo. Perché non c'ho niente attaccato, manco la televisione c'ho attaccata. Io sentivo cantare. Concetta deve essere che era. No, ero io a cantare. Ah, tu eri Concetta. Canta che ti basta la paura, diceva tu. Ma che te l'ha mandato già. E adesso lo guardo. È uno di quelli che si apre, di quelli militari che c'hanno il tappo, Ah, è bello, cavolo, è bello, è andata lì, molto bello, e quelli che si chiudono. Ehi, c'hanno il tappo, c'hanno, adesso li devo fare il basamento perché è troppo leggero, mi. E gli metto i piedini di gomma e tutto, almeno diventa un po' più pesante e non si muove. Ah, ho capito. Io stavo leggendo la storia del 140, lo sai che è nato come apparato militare? E cosa, il 140? K. E anche loro ce le hanno quelle frequenze. Stavo leggendo su internet, stavo guardando e quindi stavo leggendo un po' tutte le cose. E io ho capito. E c'è scritto, è nato come apparecchio militare, dopodiché vabbè, fuori dalla chiara di Amatulli. E infatti. Ohia, tutta la in casa gioco, Natali, non riesco a muovermi dal letto, è dolore. E io pure non sto uscendo. Solo quando non le posso fare a meno. Io non sono uscito né oggi né ieri da nessuna parte. Ma al corso stai andando, sì? Sì, sì. Non devi perderlo. No, studio anche a casa. Non mi fregano. Bene così, va bene. Devi partire vincitore. E speriamo di riuscirci già. Non è tanto facile. Vabbè, ma sei una studiata più possibilità, Natali. E poi se ti fanno domande di quelle che tu non hai visto, non hai studiato, sei proprio scavagnato, ma se uno ha studiato è sicuro di sé. Lo so, e ho studiato tanto, non poco, tanto, ma cosa bene, un bel da studiare. Guarda te che ne ha ancora gara. Purtroppo, cosa vuoi va? Cazzo, qua c'è gente cattiva, ti mettono nel mirino. Allora vedi che devo usare per forza l'apparecchio omologato. Non posso usare niente. Infatti questo lo lascio così com'è. E come l'ho comprato. Non ho né canali, nulla, non puoi va dietro. Perché c'ho solo 40 canali e basta. Sì, ma io anche nel 10 l'ho fatto 10 sui Natali. L'ho fatto anche sul 10. Qua, in AM. Lo so, purtroppo. Ma poi non è utile, i 40 canali e basta, è difficile che si chiama bandi, però almeno io non ne uso né banda laterale, né FM, qualche volta così, però non, più che 40 canali non uso. E lo so, io andavo invece in alto, prima potevo farlo, adesso apparati non ne ho che fanno così, e quindi mi devo accontentare. Kappa. Penso di toccare comparti tutto una volta che passi. E un paio d'apparati dovrò comprare e basta. Mi piace l'ICOM IC7003, quello è bello. E così almeno, e poi qualcosa per andare in banda laterale in 2 metri e 70 centimetri, basta, non voglio altro. E 40 metri quello ci va l'ICOM? Sì. Anche AM c'ha? Tutto c'ha. E allora va bene, non so se sta bene per l'ICOM, di solito sono lì che vuol dire che sono bene in AM, ma se te non ti interessa di riuscire in AM, che ti interessa le altre frequenze, fai bene io più di quello. E non c'è il baracchino per le frequenze nostre. Eccolo, già è vero. E io invece mi dovrò comprare un ricevitore, forse, almeno per sentire le frequenze radioamatoriali, un ricevitore, oppure il 140, non lo so, adesso vedo. Infatti. Vai! Cosa vuoi? Non viene un ricevitore, almeno sei tranquillo. Io c'avevo l'ICOM IC725 che ci va bene anche qua. Oh, come apparecchi? Sì, cazzo, quello ci va bene anche qua. E te l'hai venuto? Per forza. Qua ti mettono nel mirino. Solo perché ondeggiava l'antenna più da normale, mi hanno fatto che il figlio del fuoco, figurati. Ma non ti credere che cambini, anche se tu diventi radioamatore, saranno sempre che la mentalità è chissà. Però stanno battendo, non riesco a capire. Cesare deve essere che sta battendo. Capito, Natalia, la mentalità è chissà. Vabbè che se lo fai con un radioamatore è diverso, perché è tutelato. Infatti, se riesco a prendere quel pezzo di carta, almeno sono in regola, non mi possono dire nulla. Ha capito? Quello sì. È solo per quello, mi è poi una soddisfazione che mi voglio prendere. È una soddisfazione personale, già me l'avrò sudata, però è una soddisfazione personale, magari non la uso, però è meglio che ce l'abbia. Se no mi vendo tutto, se mi bruciano cazzo mi vendo tutto e non le faccio più attività di nessun genere. E perché? Ui. La digrii, ma non mi prendo la pazienza, entro sempre qua, io la digrii. Lo so, ma diciamo che alle basi della 27, è più affezionata la 27 che le altre frequenze, ma chi ha la 27 vuole ascoltare anche le altre frequenze, io per stasera stavo ascoltando 525, stavo ascoltando, ma poca roba, mi conosce, sono stato poco. C'è un amico nostro che è un vecchio radioamatore, ma vecchio che non entra mai, qualche volta entra, eppure ha detto lui, parole sentite dal sottoscritto, ha detto la 27 è la miglior frequenza che esista. Vabbè, infatti molta gente la vede così, perché più libera come frequenza lì è più, diciamo, è più seriosa, capito? Qua se vuoi fare una battuta la fai tranquillamente, lì non si possono fare battute eccetera eccetera. Lo so. In chi date biscago l'usario in mano, i scriventi, capito? Non è come qua che non devi scrivere nulla. Qua devi non devi dire con chi hai parlato, di cosa hai parlato, in chi mi devi scrivere tutto. Io già ce l'ho il log di stazione, poi non ne sto più scrivendo, ce l'ho tempo fa scrivevo tutto all'ora che entrava, come lo ricevevo il segnale, tutto quanto, da dove modulava. E anche io ce l'ho, c'ho quello per SWL e quello per radioamatore. Ma poi ti stufi perché devi stare scrivendo e parlando, capito? Non riesci a seguire bene. adesso siamo nell'era dei computer, fai un collegamento per esempio e te lo scrivi automaticamente nel computer da solo, capito la situazione? Vabbè, e adesso è tutto quanto con programmi, tutto digitale, tutto particolare, quella frequenza lì è tutta particolare, digitale, tutto quanto. E lo so, a me però piace la fonia e il CV doppio, basta. Adesso me lo imparo bene, cerchiamo di apprenderlo perché il CV doppio è tosto. Pensa, se quello che insegna a noi e va in CV doppio Antonio, no? Quello lì si accorge addirittura se stai usando il computer, se stai usando il tasto. Riconosce la persona che sta battendo, dimmi tu. Figurati. Ma adesso l'esame quando lo date? A ottobre? No, a novembre. No, a novembre, iniziano il 18 novembre. Ah, ho capito. Sì, allora ne hai proprio. Ok, 1, 2, 3, 1, 2, 3, Ricordatevi che vi sto ascoltando, vi stanno ascoltando anche gli altri, che il CV25, noi parliamo, come parliamo sempre, come voi parlate nel canale 10, non dobbiamo scrivere niente, diciamo un sacco di cazzate come diciamo nel canale 10, a 525, perché è una frequenza monitor, che non è chiaro mica al mondo. È chiaro che quando vai sui punti e quando vai in HF allora è un altro discorso. E questo mi sembra che tu lo sai, Natale, visto che stai studiando, no? Sì, io lo so. Allora, cioè, fate come se io qua, parlando di noi che siamo a 525 e stanno tutti ascoltando, lo sto dicendo per quello. 525, una frequenza monitor, come? Può essere monitor quella della 27. Non ha nessun significato niente. È chiaro che non puoi stare sempre a catto in bocca. No, se dobbiamo mandare a fanculo qualcuno lo mandiamo, non è che siamo lì a perderci in chiacchiere. No, ma ho visto che quello lì è un canale abbastanza libero. Oh, claro. Infatti ho solo quello, sì. E appunto, stiamo ascoltando anche gli altri. Io non ho ascoltato nulla oggi perché era tutto spento, che mi stavo guardando i funerali della regina e quindi non ho ascoltato niente. Ho acceso poco fa quando è entrato Luca. Ma hai visto cosa hanno scritto su internet? Che praticamente la bara era vuota, che i funerali l'avevano fatto prima e hanno fregato di persone facendo credere che c'era la regina dentro. Ma mi hai risposto, dai, che sono 5.25. Esatto. Mi hai risposto che sono in 2 metri, 5.25. Ah. Sono entrato a dirvi perché mi stanno ascoltando, siccome gli altri non hanno il baracchino, sono partiti a dirvelo. A ricordarvi che 5.25 è una frequenza monitor che noi diciamo solo cazzate e basta, ok? Ciao, tipo baracchino se lo stanno usando, okay? Già lo so, scherzano, si dice, è vero, lo usano come un canale libero, là. E per quello già me ne vado in HF io, basta non parlarci lì e me ne vado in HF in CV doppio e sono a posto. Ma tu ricevitori c'hai? Io ce l'ho il ricevitorino piccolo qua, quello da base, te lo ricordi? No, Natali, non me lo ricordo. Io mi ricordo che tua mi aveva detto non uccidevo, che era una favola, prendeva tutto, bande laterali, tutto canto. L'ho messo in carica una volta e si è fuso sia l'alimentatore che l'apparato, l'ho lasciato di notte accesa, ma qua non ho bisogno di VU. Perché non ti compri questo qui, come quello che c'ho io? È bellino, mi prende un bel di roba. E quanto costa? Non ti credo che costi molto, no? Aspetta che marca è, ma aspetta che te lo dico un attimo, che era spento, non ho... Dell'Uniden è, quello da base dell'Uniden che c'ha i piedini rossi, per metterlo in orizzontale, in, lo puoi mettere tipo baracchino, c'hai i piedini sotto. E costava poco, un 120 euro, non ti credo che costava molto, no? E quello lì, cazzo, piglia un bel di roba, anche la CB. Ah, vabbè, per la CB c'è un baracchino, mi interessa, più che altro adesso fa usare radioamatori. Sì, ho capito, ne ho avuto anche io uno. Non me l'ho preso su internet. Eia, ce l'ha anche Marcolino Condor, quello lì, uguale al mio. Perché me l'ho preso, me lo sapevo io. Marcolino mi ha mandato la fotografia e me l'ho preso. Ma ce l'ho da molto, mi, quello lì. Ho capito, ma va bene, dai. Mm. Se non mi piacciono anche quelli stazioni tipo apparato, dai. Stazioni base così, sono molto belli. Ehi, questo non è portatile, no. È stazione base proprio. Ah, ecco, vuoi lasciare l'antennino dietro oppure devi attaccare l'antenna? Con l'antennino dietro, secondo me sì, non piglia nulla, è meglio che ci abbia un antennino fuori, attaccato magari vicino nell'antenna del baracchino, fai scendere una calata e via. Così pigli, o ti pigli una discone, ma anche con un'antenna, io ho fatto un'antenna, me l'ho costruita io, eh? Cavolo, piglia tutto, altro che discone. Come l'ha fatta, col filo, col casco? No, di alluminio, Io me l'avevo fatta per la macchina, te la ricordi, piccolina, l'avevo fatta che se pigliava la bustura l'avevi risolta con l'onfe, con quell'antenna, solo che se andavi in mezzo ai palazzi non ti sentivano. E cosa vuoi? La metti sotto l'antenna del baracchino, cazzo, molto ci vuole. Quella che ho fatto io, veramente io l'avevo fatta per il PMR, per ascoltare il PMR, però ascolti tutto con quella. Anche i 2 metri, a 5,25, ascolto con quella io. Non ha né radiali né niente. Ma abbiamo visto ricevitori natali che costano meno, anche i 100 euro, 59, 60, roba così. Ma non sono come quello che ho io, se te lo pigli, pigliatelo così. Chiedila a Marcolino, a vedere, piglia la banda aerea, il PMR, i 2 metri, piglia un bel di roba. Allora va bene, dai, non me la parecchio. Sì, sì, un po' uno l'ho già avuto io. Cos'è? Manuale? Cosa c'ha? UFO o è manuale? No, è tutto automatico, ti puoi memorizzare i canali, no? Che ti interessano a te. E lo fai andare nelle memorie. Cazzo. Praticamente i canali dove c'è gente, che sai che c'è gente, te li memorizzi nei canali privati e lo fai andare. Lui il primo che parla si blocca. Sì, scanalizzi, ho capito. È di lusso, e lo metti sempre in scansione. E lui va e si legge anche la frequenza di quello che sta parlando. Già è bello, sì. È bello, sì. C'ha lo squelch, tutto. È veramente bello come ricevitore. Telefono a Marco che ti dice la cosa, ma lo sai, io la so Carugino che non vedo, è Uniden, però non mi ricordo la sigla, se no te lo vedevi su internet, c'ha una staffa con due piedini rossi sotto. E poi vado a vederlo, vado a vederlo. Scrivi ricevitore Uniden e così te lo vedi. Ricevitore Uniden da base, e così te lo vedi qual è. Sentono delle martellate, ma tu voi siete o no? No, quello di sopra che sta battendo, chissà cosa, ma la giù ci si appicendi. Senta, si tengono da qua. Mia lo sì, certo. Chissà cosa, ma stanno aggiustando qualcosa a casa sua, non lo so. Se non le fa scendi. Tu si lo sa. Vabbè, comunque, e che antenne ci metti la talilli per le frequenze radioamatoriali? Quella che ti ho detto, una solo ne ho messo, quella che avevo fatto per ascoltare il PMR, quella lì, e accoci tutto, accoci. Ah, ecco, ma quello che mettevi anche in macchina? No, anche con l'antennino della macchina, mi la puoi fare. E ascolti tutto. Ho capito. Lì vai a una sciaffa, lì vai, e attacchi sotto l'antenna di baracchino, vedrai che accolti tutto. Anzi, forse con l'antennino della macchina ascolti meglio pure. E io mi ricordo che c'è la luce, l'antenna della macchina sopra quella cosa parabolica in campagna, si ascoltavi tutto. E anche qua fuori dalla finestra ce l'avevo, per non metterla in alto, no, però adesso l'ho messa in alto, accolto tutto e ascoltavo tutto con l'antenna della macchina, fuori dalla finestra. Tu figurati, al limite ripuliva una staffa fuori dove c'è la veranda tu. E ascolti lo stesso, con l'antenna della macchina. Vabbè, sì, lo so, io ci posso mettere una base magnetica, qualsiasi cosa. Basta che compro l'antenna VU così. E allora, e ascolti tutto. L'antenna magnetica, basta. Caragava. E adesso se decido di prendere un ricevitore, così almeno faccio un po' d'ascolto. E infatti così accolti tutto. Oltre ad avere l'antenna CB hai anche quell'antenna lì e ascolti. Beh, ma io prima sui 7100 quelle frequenze lì ascoltavo con la mantova, ascoltavo ma non bene, no, perfettamente 9.10, 9.5. Ehi, lo so, lo so. Magari ho quella che tu adesso con la Dimas non ce l'avrei fatta. No, gli ascolti lo stesso, quella fa 10, 11 e 12 metri addirittura. Fa tre bande quell'antenna. Ma tu non avevi messo rinforzi quando l'hai piazzata? Non gli ho messo nessun rinforzo. Ha pigliato i batturati che non ve ne vea di lui ed è sempre sopra. Si tratta di piazzarla bene. Ma tu sei in isola coperta, capito? Non sei libero per il mare. Se ti muore uno sciamale dove sono io, tutto il vento prendo. E anche qua mi piglia vento, non ti preoccupare. Mica adesso si vede dal ponte l'antenna mia. Guardala a vedere quando passi sul ponte e mi dici verue. Sì. E quando sarà Natale? Io devo ancora operare. E quando sarà? Io ti sto dicendo quando sarà, lo farai. Comunque sei soddisfatto di quell'antenna? A voglia. Ma non lo vedi che con l'altro c'avevo sempre il QRM a Santiago 7 c'avevo. Quelli bassini non li sentivo. Avevo intendo tutto propagazione cantuve. Scusa, QRM niente. Stazionare niente. E infatti. Infatti. Ma è solo che è sempre di fibra sintetica, capito? Dopo si sfibra col caldo, con le intemperie, si vetrifica quella fibra lì. E io gli metto una canna da pesca, tipo un guerrento chi su chi va in chivi. E mi raddratto ugualmente, me la giusto, molto ci vuole. Quando gli faccio la canna da pesca, vuol dire che ne pongo un'altra. E problemi vi sarà. Vabbè, quello già è vero, magari se metti quelle guane di elettricista vanno meglio di quella che hanno messo. E mi sa proprio di sì, mi ribiglio a misura, mi ribiglio e me la porto uguale. E magari non si rompe più, capito? Cava cava. E qua a casa le ha fatto quelle 2 giorni fa. Vento ne ha fatto un becco, ma un meme, si bigiava l'antenna. Io me lo posso immaginare, lì gatto, è una zona molto aperta. Sì, no, è più che altro la luce al mare, capito? Se è vento di mare, è allucinante. Ehi, ma non l'hai l'antenna buona, tu? Sì, tranquillo in Chivi. cercando. Ma chissà dove l'ho messo. Bah. Mi è venuta una botta di arteriosclerosi e non mi ricordo dove ho messo una cosa. Ah, ok. A che ore sono, Natalia? Le 8:10 passate sono. Tu già mangiato, hai? Ah, io sì, Ah, ecco perché sei arzillo. Quando è venuta la 50 che mi stava sgridando? No, pensavo che era per la pastiglia. No, la prendo la mattina la pastiglia. Era per misurarmi la glicemia e così potevo mangiare, capito? Perché me la sto segnando sempre. Ma tu, ascolta, ti segni la glicemia, non prendi nulla. Se l'hai alta per dire, cosa prendi? Pastiglia o fagnizione? No, non piglio nulla. Fino a quella della notte solo mi faccio la glicemia, l'insulina. Prendo una pastiglia la mattina e l'insulina la notte. E quella me l'ha lasciata per non darmi altri farmaci, perché con quello che ho passato io è meglio, più pochi farmaci prendo e meglio è. Sì, quello già è vero, E mi voleva togliere anche quella della notte, però dopo ci ha pensato che tutto quello che ho passato, poi... Se riesci a regolarti col pasto, a me mi ha detto che mi ha detto di togliere tutto. Se tu riesci a regolarti col pasto, se riesci a regolare col pasto, io gli tolgo tutte le medicine. E una volta che riesci a regolarla, è per forza te le toglie. Devi cercare di riuscire a regolarla col mangiare, perché la nostra è una malattia dal mangiare proprio. No, Tali, quante volte l'ho fatto e quante volte ci sono riuscito e poi ti viene la crisi la stessa, ti mangi pure frigorifero. Non devi cedere alla crisi di astinenza, quello è il discorso. Anche se ti mangi il frigorifero, poi ti salta tra i denti. Sì, no, ti viene la crisi di astinenza, ragazzi, quando mangi poco è così. Quindi oggi 120, 110, tutti i parametri erano buoni. Solo stamattina che era un po' alta, era 201. Era alta sì, di Manzano, bui. È una malattia subdola. E a volte mangi poco e ti sale lo stesso, no? Infatti, è visto, è una malattia del cavolo proprio, mamma mia. In prigione, insomma, diciamo, alla via. Tocca mangiare sempre roba che non te la faccia salire. Io non mangio manco prima, ho capito, Natalia. Figurati. Io il primo già lo mangio. Però già ce l'ho sempre bassa, non è alta la mia, dai. Non è grave come la tua. A me lo mangio prima e mi sale lo stesso. Perché la tua è più grave della mia. E quanti anni ce l'hai tu? 20 anni. Ma che io prima prendevo solo pastiglie, mi Natali. Lo so, ma dopo peggiora, è sullo discorso. Sì, a volte il dottore mi ha detto che ci sono pazienti che pure stanno attenti a prendere medicine e sale lo stesso. E allora? Infatti molte volte ce l'ho alta e alta, non tanto alta come sale a te, a me non mi sale mai come sale a te, capito? E quanto ti sale? A 170 massimo. 170 è già altina, Ma non deve superare i 200. Lo so. Ma si mangia a 170, poi mi posso l'anesione, accenami, se mi sale, mi faccio l'iniezione e poi mi si abbassa, capito? Per il domani mattina come ce l'hai? A 90, 85, capito? E va bene. Io l'altro giorno ho misurato a 54, era, cazzo, mettendo tre muovendi, questo che strano. Ho controllato e avevo mangiato pollo, roba così, salata, pollo, bassa. E ho dovuto mangiare qualcosa. Se ti si abbassa così fai forza, devi mangiare qualche cosa. Vuol dire che ti è abbassata troppo, a 55 è bassa. La mia ballerina, capito? Vabbè, qualche volta sono io che ho la coppa, mangio qualcosa in più e massa giù dall'impicco. Però è molto ballerina la mia. Quello è. A a volte si abbassa, a volte si alza, però quando si alza non te ne accorgi, quando ti si abbassa ti dà il rimulone, allora vuol dire che devi mangiare qualcosa. Infatti tu quando ti intendi a misura, a rimulone subito te la misuri e vai di. Secondo la natura si vede preoccupato, ma niente, che cosa? Certo, sono andato a fare una visita da poco e mi sono dimenticato di dirgli il caso che non mi bastavano le lancette, adesso sono buttato con un problema delle lancette. Quelle per fungere il dito? No, le lancette quelle che si infilano nella macchinetta. Le strisce stai dicendo tu? Le strisce, cioè le strisce, sì. Bene, non mi bastano mai. Sai come? Me lo devi dire, quanto te ne hai ordinato? Due me ne dà al mese, due, però io la prendo quattro volte al giorno, capito? Due scatole da quanto però? Da 50 so. A me 125 me ne dà. Praticamente non mi basta neanche perché qualcuno è difettoso, scrive error, vai a metterla, scrive error e ti tocca buttare. Pure a me. E quindi glielo devi dire, a me 125 è il massimo, più di quello lì non te ne può ordinare, ma la sorte. Io me le ho dovute comprare l'altra volta. E anche io, costano 11 euro e passo. I miei costano i 16 addirittura, costano di più, 20 zinchi. E io non sto ricordando male, io mi ricordavo sulle 11, dai. Vabbè, comunque costano un bel, non fa comprarle. O se non dessero più medicinali e le strisce tutto quanto, cazzo, moriremo tutti quanti. E è un casotto, Questa sanità è allo sfascio proprio. E adesso dice che c'è anche portatore senza pediatra. Non so quanti bambini ci sono scoperti senza pediatra. Pago sono obbedienti, si nanda, si buona con tu giuio. Perché sono pagati poco e gli fanno fare un casino di ore. E la gente non ne può far più. Il dottoressa che avevo io faceva sostituzioni, andava alle carceri, faceva dottoressa delle carceri, insomma faceva un sacco di roba. Adesso è andata in pensione, ma quella era brava. Adesso è in pensione, però sta professando lo stesso, praticamente lo sta facendo le sostituzioni di altri dottori. Perché magari ha visto che si è fermata e si annoia senza fare niente, capito? Ehi, andando a essere non può più lavorare, però lei, essendo un libero professionista, può continuare a fare il dottore, capito? Già lo so, perché sono liberi professionisti quelli, capito? Basta essere iscritti all'albo e paghi le tasse. Vabbè. E poi dice che non si crede che si diano tanto dalla SL, ci pagano la fesseria, non abbiamo ferie.